fa così tanta paura? Ma vi fa così tanta paura la cultura? Che paura vi faceva Radio 3? Che bisogno c'era di smantellare una rete? Che bisogno c'era di smantellare una rete fatta così bene e tanto seguita?